alle 10, prego. Allora, attenzione, 10. Chi è avanti? Ebbè Natale, buonasera. Chi è avanti? Ebbè Natale, buonasera a me. Ciao Fra, ebbè. A Londra, a Londra. No, ne ho fatto due di buchi perché poi devo prendere anche la punta perché quella punta non va bene. Ci vuole fare la punta da 12. Oh, e non ce l'hai tu la punta da 12? No, non ce l'ho, la devo prendere. E poi domani è pure vista, adesso vedo un po'. Domani saremo in campagna, forse ce l'ho in campagna, capito? Cazzo, un casino, va. Andiamo bene, andiamo, bubu. Beh, Tonino. Beh, buonasera. Ciao, Toni. Ciao, Tatari. Un casino in Germania, bubu. Tutti tedeschi, so. Chi c'è il vota? Nessuno. Sono voi due. E allora, questo è il canale dei morti. Ecco, si dice Natalino. Vero, sono morti e non se ne sono accorti. E poi dice, non c'è mai nessuna frequenza, la massa gliene varia. Beh, per carità. E vabbè, facciamo noi. E beh, c'è qualcosa dentro. Ma va, per tutta la di nuovo entrata, anima viva. Io non c'ero a casa, quindi sono entrato adesso. Perché ascoltano, capito? E ci fanno le orecchie pelose pure. Allora, ascoltano. Io avrei voluto un monete da deficiente, se mi canta niente, io a Cucreni. Ma poi diventi ricco. Eh? Diventi ricco a voi, fra. Allora, se ne fanno con i catti, con le cuffie, ascoltare tutti i discorsi, via. Ma se non c'era nessuno tutto il giorno oggi, dai, io, fra. Cazzo. Cosa accorciano? Il QRM accorciano. E io vado a quitare il QRM e burro squeccio, ma giù buccio. Penso a lui. E invece mi ricordo direttamente. Io manco attento, ma devi dire. Oi, oi, oi. Infatti a volte lo spazio non c'è nessuno, buccio, è tutto buono. Allora, la famiglia ho ritirato, gli schiere le pastiglie. C'è la macchina. E allora, gli ho ritirati, sono arrivati. Sono andato e gli ho ritirati. Allora, dischi e pastiglie 80 euro. Sì, anda bene me, da là. Ci hanno fatto fare un preventivo da un altro, dall'Italia, dischi e pastiglie da tutti 80 euro. Dove ti sicuro due gomme? Via. Beh, diffidiati, so, con i brici. Perché le gomme io le sto portando io, sono nuove, a prepiazzarmele. E vogliono 25 euro. 4 gomme e 50 euro. Sì, 25 euro la gomma, Ma è più barato, anche là che vuole 30, capito? E però te le puoi cambiare le gomme. E come faccio a cambiare? A bucanire sì, anche la taglio è bucata, e l'acqua come ti posso entrare là? A gonfiare già c'ho il compressore piccolino io. Capitamente va di anni antichi che andano bene queste cose, quello che c'è copertone. E non è un cacciavite, c'ho i cacciaviti grossi al limite, boh. Sono quei cacciacopertoni che c'hanno i gommisti per cambiarla. Me la togli prima tutta la gomma, da una parte, poi dentro il cacciacopertone dall'acqua e me la gavere anche a base. Ci metti il sapone in giro, col pennello e entra subito. Ho capito, fra, mi manca il cacciacopertone grosso. Loro vanno in questa macchinetta, entrano la linguetta, gira la poscia. Prima 2 secondi e poi vuole vedere la pozione così. Vanno 2 secondi, prima non vedo questa macchinetta. Lo so. Natalie, ma anche tu stavi parlando, che Franco ti ha chicciato? Ehi, se non mi chiccia, cazzo, allora devi rampare tutto, dalla posizione che vai, logico che mi ha chicciato, qui io sono basso al basso. Ah beh, io ce l'ho lì ad aria, Franco, ma io ci voglio affondicare a me. E se no a me, cazzo, ma arrivo a forte da tutte le parti, Franco, che c'è una posizione invidiabile e l'antenna è uguale. Io che sono piccolino e piccolino sono fuori Sassari. Anche se sei piccolino tu mi stai arrivando forte lo stesso Tonini. Io è che sono in basso, ma varai a di. C'ho poca potenza. Tu sei quasi oggi 9.25 mi attarino, oggi bacciano. Io sono arrivato l'antenna di altri 2 metri. Oh, fra, mezzo sono arrivato, sì. 9.20, radio 5. Sono liscio liscio, non so niente. 9.20 qua sei arrivato. Sono in casino. Il palo è per terra, già lo sai di piazzata l'antenna, fra. Vada vuol dire a volte. A secondo, dipende dalle zone, magari c'è il varco aperto e arrivi bene per quello, capito? E io vedo già Sasha da qua a me. Quindi. Ma io già va bene questo qua. Poi stazionario non ha, già va. Tu sei in zona altissima, ui. Superici pure un bacio alla polizia. Allora io da casa vedo tutto Stintino, tutto Porto Torres, tutto Alghero, tutto. So sì, una bella posizione alta. E io che la faccio la posizione, come va bene. Questa come posizione già è bella, dai. Vai Natale. E allora, io che sono un po' così come posizione, ma ci difendiamo ugualmente. Ci facciamo sentire, dai. E infatti, pure se faccio due fatti, io mi posso sentire, non c'è problema. Che sto facendo? Ci può battere, non di più. La pagava. E tanto cosa rimane a fare, infatti? Se combatti, beh, avanza, fa Sassari. E infatti li puoi mettere se parli fuori. Quello è vero, ma non ce ne abbiamo fatte. Io c'ho solo batter e boh, luci. Adesso voglio provare, Tony, quelle Sommerkamp come esce. Capito? Prova, attaccalo a vedere. Però prova ad attaccare, Natale, non l'hai ancora provata, lo sai. Sono andato a aprire la mia moglie, quindi non ho seguito il discorso. Mi dovete scusare, ma c'era la 50 che ha bussato. Aspetta, che voglio provare quel Sommerkamp che hai visto tu, Natalia, a vedere se funziona. Chissà se funziona la cura, allora Bruno, un secondo, era pronto. Io dico, cazzo, si attacco su 23 canali, chi va giù e va Ruzecco. Si attacco su 23 canali e esce più forti di avanti. A chi sono incubati di dati? Io adesso faccio 23 canali, si chiama C1800. E funziona bene, 23 canali. Forse c'è anche i quarti, è un bel bicio mio, ma non siamo andati bene. E te credo, li attacco il turner, li attacco a quel 23 canali, lui vede i fruscendi. Guarda questo bidone come funziona. La radio cupa un po'. Quel 23 canali è... Bene, va. Io. Vabbè, un microfono normale, comunque si sente che è un baracchino anche di brisimi, non ha tutta questa potenza in radio. Avete tre canali della Sommerkamp, è un bidoncino, dai, cosa pretendi? Infatti sì, senti con nove qua, fra, sei calato bene. Lo vedi? È da te Natalì il basso, no? Chi ci andava a punire la vacca, no, è apparecchio da... Adesso ti faccio notare la differenza di quello che c'è in macchina, quello piccolo da questo. Prova a caldo. Prova. Che? Guarda questo com'è. È radio all'incirca come quella là, più o meno. Però è più squillante. Questo è quell'altro piccolino. Ora. Santiago 992, non di più. Sono baracchini così, dai. Ok, dai. Adesso provo a attaccare io con lui, cioè sto collegando i fili. Ora, dico meglio, anda. C'è la bomba. Sono baracchinetti che non si vedono nulla, dici. Beh, cosa te ne fai? Roba antica. Non riesci a vedere, va. Come c'è la canzone. Eppure l'ho collegato. Allora, c'è qualcosa che non va. Devo attaccare 23 canali. Non è 23 canali. Mi ha già attaccato un'altra cosa invece attacca chi so. Canali C1800 si chiama. Ma vecchio che nonno. Era buttato nello scaffale, cazzo. 23 canali. C'è quel vatto. E sto cercando i figli, aspetta. Vabbè, Natalino. Oh yeah. E a Londra, che si dice lì? E cosa si dice? Diglielo che... Sto per mangiare adesso. No, se tu non vieni. Per mangiare anche io tra un po'. Vado a cenare. E vai più parenti con sé. Però freddo fuori non ce n'è, è un caso, ma vai che E diremo che nei prossimi giorni, dopo le feste, il feste devo fare la visita fra, mi accompagna a Porto Torre. Dove è Lusetti? Lusetti novembre va giù l'appuntamento, di sera, a Rigingo, di Bassinchini. Porto Torre. Ma non c'è la polizia? Ehi, lì devo fare la visita col chirurgo vascolare. Oh Franco, lui? Sto usando il tre canali, com'è? Ehi, andate, la radio non è che sia forte, già va bene, radio normale. È un tre canali che c'è proprio antichi antichi, la carità. Quando Mutro si accende e CR, poi si prendeva in 6 air, vedi roba. Ehi, andate, già vanno bene. 6 air, 3 verde, quell'altro è rosso, bestiale, è la peggia. Ma esce a tratti, è sempre fermo, arrivato l'altro a te. Poi c'è tutto quanto a tratti. Se va bene, Natalino, c'è un problema, già ti accompagno. Questo è meglio, no? Vabbè, un bel vecchio, un bel fermo che su è. Quando lasci fermi, si rovinano. Lo so. Quando lasciano le tappe fermi, si rovinano, sì. Ma tutta la radio non sono vissi, ti guardi. Lo so, bisogna sforzarli un po' di quel prodotto, di esercitante. Magari con quel prodotto va bene, capito? Che il frutto è quello e va alla grande. Cappa di rocciolo. Natalino! Oh yeah! Riprenditela! Ehi, sto per mangiare, dai, riprendete voi, già vi ascolto. Andrà bene, buona cena allora, dai. Stammi bene, salutami anche la tua metà. Ok, avanti fra. Ma provo l'MB più 4 per diventarla. Attacca. Guarda questa com'è la radio, va bene? Ehi, è mamma siga, ma è mezzo sfulgato. Questa è l'MB più 4, com'è, buona? Ultima fra, amplificata, bella. Gappa gappa. Ma non è solo nessuno la frequenza, boh, a chi non entra lì? Cosa ne so, hola, hola, hola. Comunque mi ha giovegliato 27 metri di cavo RG 213. Cosa te ne fai? Quando cambio il cavo o l'antenna, ne metto una migliore, metto quello. Perché quello che c'è non va bene? Sì, momentaneamente, adesso sì con questa antenna, poi se cambio vediamo, non lo so. Cava cava. Comunque va bene questa radio, sì. A bomba fra. Andava, andava. E il segnale com'è? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facci 9, 30. E adesso, guarda un po'. Si è calato pochissimo, 9,20. 9,30, così va bene. Scappa. Bisogna prendere in funzione, se no si rovinano queste radio, yeah. E allora, è così. Anda bene meglio, a che ora sono? 7:15 subito. E tra poco mi preparo qualcosa a masticare. E tra un po' chiudo anche io. Devo appoggiare, accelerare, dai. È tutto lì. Vabbè, su 23 c'è, bubù, andiamo bene, andiamo, bubù. Andiamo bene, bubù. Se è vero. No, questa va bene la tua radio, è bella una radio. Cos'è un 220? Ho capito, cos'è? Cos'è un 220? K. Vedi, chi c'ha bisogno di alimentatori, chi c'ha attaccare il pino ai suoi andenti. Esatto, Franco. È perfetto questo qua. Ma chi c'ha questo alimentatori, che palle qua. È un casino questi alimentatori. E beh, meno posso prendere tante cose, capito? Perché tra baracchino, armetatore, fili, filetti, un casino, invece qua attacca le pile si andette. Ma infatti, detto che non base sono belle per quello, per quel motivo. Se non per bisogno di alimentatore. Io con la fila di luci a LED che trovo a te, io ce l'ho sempre attaccata, ma non c'è la luce che mi fa, fra. Lo so, la volevo mettere qua io. Qua ce l'ho sempre attaccata al mobile, sotto. Vabbè, chica, trovo un po' tecnica. Che ci ho fatto un bel di ruzzi, Forse lo metterò più in basso, ma vabbè. Comunque la batteria, perché c'è il posto interruttore, ma invece, ruzzi, c'è qua. Sono consumato un dato. Cosa vuoi consumare con le luci? ce l'ho me, ci ho piantato io. Da quando ho trovato a te, c'è attaccato uno o due giorni prima, ha fatto il conto, ha fatto deve passato. Sempre, sempre ultimo è. Non raggiunge, però se sai che già mai. Se la sai che dura un anno la batteria di chissà cosa. È brutto, non so. Io Vittoria. La prima cosa che faccio dopo la mattina quando mi sveglio entro con il telefonino e guardo se mi ha rivista la pensione. Ma secondo me te la creditano dopo la notte? Noni Franco, guarda, se me la creditano direttamente come dico io ti vado anche messaggi con e da là è arrivato il studileros lo strano è l'uno ma vale guarda cosa? L'uno o il due della crisi, ma è in automatico sempre il giorno uno a me, forse domenica, forse in fitta è sempre arrivato uno. Perché va in automatico, capito? In automatico in carica. Sì, invece mio fratello c'ha, lui ha sempre lavorato a conto suo ma è assicurato e quindi c'ha quella sociale, la pensione. Tant'è vero che lui gliela danno il due, io invece di vecchiaia ho confezionato tutti i contributi una vita e quindi a me era puntuale. Vabbè, se te la danno il lunedì domani ce l'hai accreditata, tranquillo. Infatti. Però se vado dentro le poste, niente, mi dice signore, lei deve venire il giorno qui 5 e dico andate a mare, io prendevo da fuori, mi dice eccetera, non mi dà, vabbè, ando una volta e poi andare domani. No, non puoi prendere più di 100. Alle poste così più di 600 non puoi ritirare. Lo so, ma fai due volte. Scappa al bancomat, perché dentro dicono non devi rispettare la lettera del cognome, capito? E io perché mi ha fatto, ho messo le poste, perché ritiro appena mi arrivi ciccia, vado, salta al bancomat e me ne piglio. Beh, infatti come le vado uscito. E allora? Beh, quando è che andiamo a fare i tuoi slots? Quando mi darà il tempo. Vediamo. Ok. Andiamo. Devo programmare i faretti 8 ore, perché? Aggio toccato e l'aggio programmato di manco. Infatti alle 4 mattina sono già curate. Prima finisce la mattina nel fase a Rusi era sempre accesi. Quelli solari. E pure li ha programmati male. Le devono programmare 8 ore, dai. All'infinito, via. E tanto si caricano a raggi solari, quelli lì, capito? Rimangono tutta la notte accesi. Sì, ma anche se è nuvoloso si carica lo stesso, basta con la luce, capito? Non lo so, si carica lo stesso, portate che sia luce. Voglio, ho 500 watt fuori, fate il conto. Poi si attacco le altre 5 a LED, le altre lampadine, che consuma poco, faccio più luce ancora. Fate un'altra manuale, giusto, ha fatto. E così l'aeroporto non che. Infatti. A me mi piace un po' di luci, lo fa, so che campagna mi illumina tutto fuori dallo cancello, dentro cancello sto cazzo. Ci vuole, dai, anche le campagne ce le abbiamo per fare. A me non mi piace che fa la luce del mosso, in campagna voglio luci, un me, luce di giorno. Ma è meglio che ci sia la luce campagna. Io vedo molto a casa una padina, pucci, dice gialla, e mentre luce fredda, bianca, bella, potente. A parte dice una padina in cui un bel di corrente in più. Ci si immagino con suma minuta, anche sulla lente, e non scaldano neanche. Ma infatti. Va bene, fra, dai, spengo tutto e vado dentro e mi preparo qualcosa per la cena. Ok, grazie di tutto, dai, ci sentiamo domani, se arriva ti faccio sapere, ok? E ci vediamo. Va bene, salutami Lucia e tante belle cose e bocca carica quando lo fai. No, tu ne bocca carica, contraccambio tutto al 100% e ce l'hai ascoltare tu, se lo saluto anche la tariffa, passate con il retino. Bocca carica la tariffa, un tutto, comunque non so problemi per il 7 se si in ascolto. Ciao, ti accompagno io. Ciao a tutti, per me quel RT e saluto eventuali essere più buone che sono in ascolto. Ok, ciao, ciao Fra, ciao. Ciao Tonino, ciao Franco, dai. Io sto mangiando, ci sentiamo alle prossime. Già ho ascoltato Franco comunque. Grazie per il ciao, quello è mio. Ciao a te, anche a te. Ciao Concè. Buon carica, ci sentiamo. Ciao Tonino. Ciao Natali, ciao, ciao, buon carica. No problem. Ciao.